quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria è il plauso di me. Per te ho pugnato, per te ho vinto. Celeste avida fu.